la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 11 dicembre, sono le 16:35 primi, siamo in diretta agli studi di Milano. La puntata di oggi è la continuazione, per mancanza di tempo, della puntata di ieri, perché giustamente molti di voi che ieri ci hanno scritto, poi ho ricevuto molte mail, la versione di Oscar @radio24.it, a proposito dell'argomento di cui abbiamo parlato ieri e di cui, scusatemi, parlerò anche oggi, e cioè la domanda è questa: se mettiamo da una parte gli incentivi per i neoassunti disposti dal governo nel 2015 alle imprese e dall'altra parte le norme del Jobs Act, di cui siamo in attesa dei decreti attuativi, con il contratto di inserimento a tutele crescenti, che consente naturalmente alle imprese il licenziamento, con le nuove norme per il licenziamento economico individuale possibile con indennizzo e non corrente con giudiziale, se mettiamo insieme queste tre cose, la domanda è sollevata dalla UIL. Ma non è che diventa per le imprese conveniente assumere solo per incassare l'incentivo, poi poter licenziare con un indennizzo di gran lunga inferiore e quindi il gioco sulla pelle dei lavoratori, dei nuovi occupati che ritornano poi disoccupati, è semplicemente un gioco di convenienza per le imprese e con il governo che fa un regalo a imprenditori disinvolti? Questa era la domanda. Ieri abbiamo affrontato questa questione dando la parola a Paolo Galli, ex direttore generale di Confindustria, economista, parlamentare del PD, che ci ha spiegato come secondo lui questa accusa, questa allarme lanciato dalla UIL non stesse in piedi. Molti di voi hanno detto contraddittorio, io ho detto guardate, tentiamo di capire cosa dice la norma, i tempi del contraddittorio non ci sono perché in pochi minuti non si può fare, ma oggi lo facciamo perché come è ovvio non è che possiamo dare per scontato che la UIL che ha lanciato l'allarme sia A, in malafede, o B, fatta di ignoranti, come è ovvio. E allora è con noi Guglielmo Loi, il segretario confederale della UIL, e gli poniamo la stessa domanda di ieri. Quindi buon pomeriggio intanto per essere con noi a Guglielmo Loi. Grazie, buon pomeriggio e buon ascolto. Allora, io non so se lei o voi avete ascoltato quello che diceva ieri Giampaolo Galli, comunque in sintesi estrema lui dice no, i conti non tornano, i benefici per le assunzioni non sono per assunzioni anche nel 2016 e 2017 ma finiscono al 31 dicembre 2015 perché attualmente non sono prorogabili, quindi non sono resi strutturali, quindi questa specie di incentivo truffaldino a favore delle imprese e contro gli occupati dovrebbe implicare una somma che nell'arco dei più anni non è possibile. Prima obiezione. Seconda obiezione, non ci si dimentichi che il licenziamento economico individuale, cioè quello che si può fare con indennizzo e non più corrente, va comunque giustificato e motivato. Non è che l'imprenditore dice tu mi stai antipatico fuori di qua, perché altrimenti, sempre secondo il Jobs Act, diventa discriminatorio e col discriminatorio si può tornare dal giudice anche se siamo in attesa di capire le fattispecie del decreto attuativo. Insomma, c'erano queste obiezioni. Allora, a voi la parola per dirci perché siete convinti invece che la truffa ci sia. Dunque, diciamo noi la parola truffa non l'abbiamo usata. No, per capirci. Giustamente, sì, assolutamente. La possibilità però di un guadagno per le imprese. Sì, è un po' un paradosso, nel senso che intanto l'obiezione di Galli sui 3 anni non la comprendiamo, perché la legge sostanzialmente di stabilità stabilisce, che è vero che le assunzioni che saranno, come dire, agevolate sono solo per il primo anno, ma la decontribuzione durerà 3 anni. Sì, però è la decontribuzione che si porta dietro, diceva lui, chi è assunto solo entro il 31 dicembre 2015. Esatto, allora facciamo un esempio estremo, assunto il 1 gennaio 2015, no? Il caso 2 gennaio perché il primo non si assume, e licenziato, possiamo simulare il 31 dicembre 2015, il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017. in base a, diciamo, all'anzianità aziendale, la decontribuzione vale rispettivamente circa 6.000-7.000 euro per anno, e quindi si fa presto il calcolo dell'agevolazione che avrà l'azienda. Cosa succede in caso di licenziamento? In base a quello che si è scritto nella legge delega, si sottopone al licenziamento di natura economica una novità, che è quella del reintegro, del non reintegro è sostituito da un indennizzo. Sì. Adesso l'obiezione che mi sarei aspettato è: guardate, ancora non sappiamo qual è l'indennizzo. Che è fondata, però quello l'ho dovuto ricordare io, perché nel decreto attuativo io ho concluso la trasmissione dicendo: guardi, che nella sua stessa maggioranza, onorevole Galli, c'è addirittura chi è arrivato a dire che non solo non va bene un mese e mezzo per anno di anzianità di lavoro, ma che anzi non ne bastano tre, e c'è chi addirittura ne ha chiesti 6 mesi, e su questo Giampaolo Galli ha detto non se ne parla neanche, perché sennò era inutile farla la riforma dell'articolo 18. Esatto, perché non deve essere un deterrente, questo tradotto proprio brutalmente, sì. Insomma, quindi si parla di una mensilità e mezzo, due. Noi abbiamo simulato su questo, perché non è stato smentito da nessuno che si viaggia su un'ipotesi di questo tipo qua. Quindi prendiamo anche una mensilità e mezzo, circa 1.800 euro per ogni anno lavorato, a fronte di un'agevolazione che viaggia tra i 6.000 e 8.000. Tradotto, un'azienda ha uno sconto previdenziale dai 6.000 a 8.000 euro e avrà un costo in caso di licenziamento che viaggia intorno ai 2.500 euro per anno. Sì. Ecco perché poi la simulazione ci porta a 3 anni. Quindi, siccome sono due norme abbastanza chiare, salvo, ripeto, la variabile dell'indennizzo, non capisco la sorpresa, perché è una scelta politica quella che è stata fatta. Però mi scusi, aspetti, prima della scelta politica, sì. Questo capisco, e ovviamente dovete argomentarla, sì. Però l'obiezione di Galli era questa. Sì. A meno di ipotizzare che ci siano imprenditori che fanno questo conto, cioè, come dice lei, assunzione 2 gennaio, lo mando via il 30 dicembre del 2015, incamero a quel punto l'incentivo per il 2015, 6.000 euro, guadagno rispetto a quello che a quel punto devo dargli come indennizzo, no? Gli devo dare un mese e mezzo, due e mezzo massimo, e comunque ci guadagno. Allora diceva Galli: ma a questo punto delle due l'una, o l'imprenditore ha assunto perché aveva bisogno e continuerà ad averne bisogno anche dal 2 di gennaio del 2016, ma in quel caso, se fa così, lui perde la decontribuzione per il lavoratore che assume nel 2016, perché quella non è prevista. Quindi, in che cosa consiste la convenienza, visto che ci perderebbe 12.000 euro a quel punto? A meno di pensare che siamo con imprenditori che si prendono uno in più per X mesi per il solo fatto di incamerarci il guadagno sopra, perché non hanno niente da fargli fare. Questa obiezione è così insensata? Però partiamo dall'obiettivo che si è dato il governo, non voglio parlare di politica, ma in sostanza la nostra impressione è che questo sia un contratto a termine agevolato, cioè se l'obiettivo è far emergere la cattiva flessibilità, diciamo così, o gli abusi della flessibilità, certo. Usiamo termini più generici, le finte partite IVA, monocommittenti, in realtà vanno a convergere su uno strumento che, nonostante la denominazione giuridica contratto a tempo indeterminato, è più catalogabile nella pratica un contratto a termine, che peraltro costerà molto meno del contratto a termine ufficiale. Quindi, in sostanza, l'obiettivo del favorire il contratto stabile non si raggiungerà. Questa è la vera obiezione, adesso la chiamo politica, ma insomma diciamo sindacale. Sì, sì, sindacale. Però questa è un'obiezione, se ho capito bene, è un'obiezione proprio sulla sostanza di come nella legge delega ha preso forma il contratto a tutele crescenti triennali. Esattamente così. Che in realtà, appunto, è un contratto a tutele crescenti limitate, perché il crescente infinito portava poi a quello che altri avevano ipotizzato, cioè un lungo periodo di prova con maggiore facilità di licenziamento, poi il fidanzamento va in porto, mi sposo e divento come gli altri, okay? Questo era lo schema. Cioè, il governo ha sempre dichiarato che questa è l'anticamera agevolata apposta per alzare l'occupabilità, e ci mettono anche un incentivo molto caro per la finanza pubblica nel 2015 per accelerarne a breve l'innalzamento dell'occupabilità, ma che poi porta tutti quelli di cui le imprese continuano ad avere bisogno, ma a tempo indeterminato. Secondo noi sostanzialmente sostanzialmente è questo, peraltro sto pagando un prezzo, perché sì, sì, questi incentivi non sono soldi freschi, sono un rimescolamento di risorse destinate ad altro. Certo. Fossero state in più, come dire, aggiungiamo uno stimolo. No, c'è già chi ha osservato ieri che questo incentivo, siccome ne riassume e comprende altre precedenti che erano pure più estese. Esatto, perché i consulenti del lavoro, ho visto, hanno fatto uno studio molto articolato, sì, che questa operazione danneggia, adesso non voglio fare tecnicalità, la 407. La 407, ne abbiamo parlato ieri. Sì, esatto, sì, perfetto, che favorisce, diciamo, le figure più svantaggiate, ma in aree più deboli. Quindi non è un'operazione aggiuntiva, è sostitutiva. Sì, sostitutiva. Sostituisce uno strumento opinabile, qual è quello della 407, le incentivi, diciamo, soggetti svantaggiati, imprese svantaggiate, per semplificare, per generalizzare in tutta Italia, in tutte le imprese, quelle che vanno bene, quelle che vanno male, quelle che assumono in più o quelle che non assumono in più, con l'unica clausola che è quella dei 6 mesi di disoccupazione. Sì. Posso aprire una parentesi, certo, diciamo, più di bassa osservatorio, ci hanno segnalato da più parti che da settembre-ottobre ci sono state parecchie dimissioni, diciamo, spontanee, imprese, con la promessa della riassunzione con l'incentivo. Così, posso dirle una cosa? Ho ricevuto lettere e mail anch'io. Quindi forse il fenomeno tristemente mi conforta. No, ma non tristemente, io temo che sia un effetto, cioè quando, siccome noi ritocchiamo le regole del mercato del lavoro almeno a ogni governo, ma in realtà a ogni anno, perché noi sono 5 anni che ogni anno cambiamo le regole degli incentivi, come il Natale arriva, le imprese hanno preso questa abitudine, non sta a me dire se è buona o cattiva, però intanto la prendono. Dice, va bene, quando iniziamo a capire come sarà l'incentivo del 1 gennaio, teniamo le braccia conserte per capire che cosa ci conviene, poi decideremo di conseguenza, primo gli aggiuntivi e secondo anche se possiamo far passare per aggiuntivi qualcuno di cui ci priviamo nel frattempo. Esatto. Questo è un fatto che avviene, cioè è inutile, non se ne abbiano a male gli imprenditori, questa è la legge di Confindustria, però problema, è così. Non è un problema morale, cioè l'imprenditore fa il suo interesse, se la legge glielo permette, può essere, come dire, eticamente discutibile, ma come dire... È la conseguenza di interventi a margine troppo sistematici sul mercato del lavoro, però vabbè, insomma... questo è un fatto che capisco. Allora, nel frattempo noi abbiamo adesso 60 secondi di interruzione per l'informazione stradale, però la cosa importante è a quel punto anche farvi spiegare voi come l'avreste voluto invece il contratto di inserimento per limitare questo che abbiamo capito meglio, insomma è un rischio potenziale, non è una truffa, però comunque di fondo c'è un giudizio negativo su questa scelta, che è la scelta di fondo per l'occupabilità del Jobs e del Jobs Act. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48, primi 32 secondi, e con noi Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL. Stiamo parlando con lui e con loro della UIL, che hanno lanciato questo allarme su questo rischio del commiato disposto degli incentivi per i neoassunti, sostanziosi, molto sostanziosi, per tutti i neoassunti, non solo per gli aggiuntivi come avrei voluto io, però per tutti i neoassunti, rispetto però alla possibilità del licenziamento economico individuale fatto col reintegro. In effetti il rischio di questa possibilità c'è, poi rimaniamo di idee diverse sul fatto che sia un rischio di massa o una vera e propria trappola, ma a questo punto l'argomento diventa: come secondo voi bisognava definirla diversamente questa via agevolata, però per innalzare l'occupabilità e avere più tutele e più contratti a tempo determinato poi alla sua scadenza? Beh, una prima riflessione di carattere generale: le risorse sono molto ingenti, noi ci troveremo di fronte adesso, tra le varie deleghe che il governo dovrà mettere in campo, scrivere, il tema delle politiche attive. Ad oggi zero risorse. Bravo, euro. Questo sono d'accordo. Adesso 3 miliardi in 3 anni non sono la soluzione di tutti i mali, ma se una parte di queste risorse fossero andate a fare veramente la rivoluzione su quel terreno che è il punto debole del nostro paese nel lavoro, cioè ce ne sono tanti di punti deboli, ma quello è un punto sostanziale particolarmente esposto, forse avremmo, ricordiamo chi è in ascolto, che noi spendiamo 5-6 volte in più in politiche passive, cioè la somma di tutto il sistema CIG, rispetto alle politiche attive, e metà di quello che è in politiche attive in buona sostanza serve a pagare chi poi sta negli uffici di impiego e così via. Noi avremmo bisogno di un sistema peraltro, mi permetto di fare il sindacalista un po' corporativo, sono il 1/10 degli operatori della Germania. Infatti noi avremmo bisogno di un sistema completamente diverso, capace di intermediare non il 2% delle domande offerte di lavoro, esattamente. La prima riflessione è questa, la seconda l'ha accennata lei in maniera chiarissima. Cioè, tutti i sistemi incentivanti a risorse limitate, anche se consistenti, devono selezionare in qualche modo. Perché altrimenti avremo un effetto indistinto, dove non si capisce qual è il cosiddetto valore aggiunto, che è quantitativo, come dice lei, cioè premiare le aziende che fanno occupazione aggiuntiva reale, e anche un po' qualitativo. Non siamo tutti uguali. Ci sono realtà più complicate, persone più deboli, insomma c'è un variegato mondo che si ruota intorno al mercato del lavoro. Adesso tutti vanno... No, mi faccio aggiungere anche che noi sappiamo oramai in tutti questi anni che abbiamo problemi, che sappiamo dove abbiamo i problemi in termini di minor partecipazione al mercato del lavoro da incentivare. Esattamente. Quindi anche qua un intervento minimamente selettivo sarebbe stato forse saggio, soprattutto in realtà dove appunto l'offerta è quella che è, la domanda è molto bassa e tutto ciò che ne consegue. Quindi queste sono le due criticità. La terza è quella della diciamo così scansione temporale. Ricordo sempre i consulenti segnalano come dire una cosa seria, cioè le aziende hanno una programmazione delle assunzioni pure in un momento di crisi che è poliennale, il turnover, il pensionamento, una nuova commessa, insomma sono tanti fattori che portano a questo. Se io gonfio, insomma riempio di metadone il tossico adesso e l'anno dopo non c'ho più niente, cos'è la crisi di astinenza? Sono d'accordo, ma questo è proprio un limite però della politica di questo governo, concentrare il tutto per poi andare alle elezioni, è la mia opinione, questa qua. È tutto ruota intorno a questa filosofia. Allora, sentiamo intanto alcuni ascoltatori così poi le mettiamo in condizione di rispondere ai loro interrogativi. Cominciamo con Agostino da Genova. Agostino, prego. Buonasera. Io volevo dire questo, io sono dipendente di un'azienda del gruppo Finmeccanica da quasi 3 anni, ho visto di tutto, diciamo ho una certa esperienza, ecco anni fa si assumevano giovani a tempo indeterminato e si faceva il periodo di prova anche di un anno e se il periodo di prova era favorevole si assumevano definitivamente, no? Quindi secondo me il fatto di aver creato ora un contratto a tempo indeterminato di nome, però poi di fatto non lo so, a tutte le crescenti, è solo una formalizzazione nuova, cioè di fatto si poteva tenere quello vecchio contratto e magari facilitarlo con delle agevolazioni fiscali, e quello era lo scopo, ma mi sa che lo scopo è un altro, cioè quello di favorire l'uscita. Anche lei quindi voglio dire è vicino alle preoccupazioni sindacali, per così dire. Sentiamo Patrizia dalla provincia di Trento. Patrizia, prego. Buongiorno, senta, io sono un'imprenditrice e volevo far presente questa cosa. Il discorso dell'assunzione dei nuovi, diciamo, dei nuovi assunti con queste forti incentivazioni, secondo me, è molto deleterio. Do ragione completamente a lei, perché va a inficiare quello che è la portata dell'incentivo. Io avrei fatto del tipo prendi uno, cioè paghi due e prendi uno o viceversa, nel senso se io assumo un nuovo dipendente pago metà sul nuovo, pago metà sul vecchio, così riesco ad inserire un nuovo soggetto nella ditta, posso creare lavoro, occupazione, esperienza. Questo ragazzo poi se io riesco a tenerlo bene, altrimenti avrà comunque acquisito una capacità, potrà comunque porsi sul mercato dove la prima cosa che chiedono è se tu hai esperienza. Facendo così, oltre alla furbata che lei stava spiegando precisamente, che secondo me molti faranno, il ragazzo vecchio rischia di perdere il posto. Io dico di ragazzo, ma... No, ho capito cosa dice. Quindi anche Patrizia dice una formula però per occupazione aggiuntiva. Allora, queste due osservazioni diverse, che pensieri inducono, Guglielmo Loi? Come si dice, è assolutamente d'accordo, sono obiezioni molto razionali peraltro, non sono dettate né da una parte né dall'altra, ma credo anche la nostra, diciamo, una visione molto laica, cioè di essere sul tema. Ripeto, le risorse sono ingenti ma non sono, come dire, straordinarie, quindi vanno spese con oculatezza. Il tema dell'occupazione aggiuntiva c'è, il tema dell'ingresso graduale dei giovani è altrettanto forte, c'è stata tutta una riflessione che forse andava approfondita sulla questione della staffetta, che sicuramente ha un costo per la collettività, certo, sia per accompagnare verso il pensionamento l'anziano che per favorire. C'è il contratto d'apprendistato che poteva essere utilizzato in parte. Quello secondo me doveva essere un'autostrada, ma adesso io non voglio parlare della mia opinione. Io sto dicendo un'altra cosa. Voi con lo sciopero generale domani come siete messi? Ma l'aria non è, come dire, contraria, diciamo così. Ovviamente è sempre delicato uno sciopero, costa, il clima non è facile, la crisi. Posso chiederle un'opinione? Siccome molti ascoltatori hanno mandato messaggi dicendo speriamo che loro scioperino anche nei trasporti, una prevaricazione e la precettazione. Io ho invitato tutti a leggere il comunicato dell'autorità di garanzia che dice no, sono violati l'intervallo minimo di 10 giorni nel settore, quindi è meglio. Vuoi lei che dice? Noi ovviamente non siamo convinti di questa cosa, vedremo giuridicamente. L'autorità ha detto anche altre cose nei giorni scorsi che sono passate non troppo sotto i riflettori, cioè che sostanzialmente ha invitato il governo in presenza di iniziative di questo tipo di verificare se c'erano le condizioni per... Quindi insomma voi avete un sospetto che ci sia un intervento politico per così dire. Ma insomma un pochino si è capito dalle sue parole. Allora grazie a Guglielmo Loi, come vedete il contraddittorio seppure in 2 giorni l'abbiamo fatto, continuate con Radio 24, appuntamento con me domani.